Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Non più di 2 o 3 mesi fa avevamo parlato di un nuovo tipo di batteria allo studio che promette un salto di 10 volte nella capacità di immagazzinamento dell'energia. Le batterie litio-silicio. Batterie 10 volte più dense delle attuali, in altre parole 10 volte più piccole a parità di carica, permetterebbero, solo per fare un esempio, di superare il problema dell'autonomia degli attuali veicoli elettrici, che raramente supera i 200 km. Ebbene, tra i vincitori dell'ultimo premio Innovazione Leonardo, che è organizzato dall'omonimo gruppo industriale ed è stato presentato lo scorso 25 gennaio, c'è Marco Natali, che è dottorando del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria dell'Università della Sapienza, che ha elaborato una possibile strada per implementare proprio questo tipo di batterie così promettenti. Buonasera Natali. Buonasera. E complimenti naturalmente. Senta, allora, intanto le batterie al litio sono già diffuse oggi. Il litio perché lo usiamo? Perché è l'atomo di metallo più piccolo che esiste e per questo è il miglior portatore di carica che si possa immaginare per una batteria. In pratica, più atomi di litio riusciamo a impacchettare in una batteria, più alta sarà la capacità della batteria. Ed è qui che entra in gioco il silicio, che è capace di assorbire tantissimi atomi di litio al suo interno. Ma c'è un problema, forse possiamo partire da qui. Abbiamo essenzialmente due problemi. Uno è quello dell'espansione volumetrica del silicio, che subisce un'espansione del 400% quando mettiamo in carica la batteria. Cioè, quando assorbe questi atomi di litio si gonfia sostanzialmente, di 3 o 4 volte addirittura aumenta il volume. Sì, infatti a causa di questa espansione otteniamo una fratturazione del silicio stesso e ad una conseguente drastica diminuzione delle prestazioni della batteria. Cioè si scassa praticamente, ogni carica scarica si scassa. E l'altro problema qual è? È quello della conducibilità elettrica. Il silicio è un semiconduttore, come dice la parola stessa, e quindi dobbiamo raggiungere una soluzione a questo problema. Cioè, chiaramente nella batteria l'elettricità deve viaggiare bene, altrimenti la batteria è inefficiente, questo è il punto. Sì. E il silicio non è l'ideale da questo punto di vista. Ecco, allora, come si sta provando a risolvere questo problema? Ci sono due strade, una la stanno seguendo i vostri concorrenti, partiamo da questa qua. Ok, allora la soluzione alla conducibilità elettrica è quella di utilizzare le nanotecnologie. In forma molto piccola anche il silicio diventa un buon conduttore. Quindi viene ridotto in una polvere finissima, no? Per cominciare. Sì, quasi invisibile ad occhio nudo. Ok, d'accordo. Mentre per sorpassare il problema dell'espansione volumetrica, quello che cercano di utilizzare i nostri concorrenti è un foglio di atomi di carbonio chiamato grafene come guscio a queste palline molto piccole di silicio. In questo modo il silicio può espandersi e rompersi a suo piacimento e rimarrebbe comunque nel suo guscio e non darebbe fastidio alla batteria. È come mettere, diciamo, una pallina da tennis dentro un pallone da calcio. Se anche la pallina da tennis si gonfia e si sgonfia all'interno, il pallone da calcio non ne risente. E quindi non si scasserebbe questa batteria fatta da tanti palloni da calcio, per capirsi. Benissimo la problematica. Perfetto, perfetto. Veniamo invece alla strada che avete scelto voi. Allora, noi stiamo sviluppando insieme al mio team di ricerca della Sapienza, guidato dal professor Marco Rossi, delle nanostrutture di carbonio e silicio per sorpassare questo problema. In particolare vogliamo realizzare delle strutture tipo un tappeto a cui le punte attacchiamo delle nanoparticelle di silicio. In questo modo il carbonio fa da struttura meccanica. Fa da tappeto, diciamo, sono i peli del tappeto, chiamiamoli così, no? Il carbonio. Sì. In questo modo evitiamo che in espansione volumetrica, quindi in fase di carica della batteria, il silicio quando si rompe vada disperso nella batteria. Ok, quindi diciamo è come se voi cuciste queste palline di silicio ai fili del tappeto. Quindi se anche queste palline si espandono o si contraggono, il tappeto resta lì, non si rompe. No? Certo. È una cosa simile concettualmente a quella che abbiamo detto prima. E state lavorando ancora su un'altra strada, giusto? Sì, stiamo lavorando su un'altra strada che è quella di realizzare strutture tipo, chiamiamole lenzuolo raggrinzito. Ok, ok. A cui attacchiamo queste sferette di silicio molto piccole, con legami molto forti alla struttura di carbonio tipo lenzuolo raggrinzito. Come se ci fossero anche qui cucite sopra, queste sferette. E in questo modo evitiamo che sempre in espansione volumetrica andiamo a disperdere il silicio nella soluzione elettrolitica che garantisce la carica della batteria delle particelle di silicio. Perfetto, perfetto. Insomma, concettualmente sono tre soluzioni che, anche se con un design, diciamo così, diverso, più o meno implementano un ragionamento simile. Ecco, la cosa sorprendente è che parliamo di strutture sempre, ricordiamolo, assolutamente microscopiche. Quanto è grande una sferetta di silicio? Andiamo da dimensioni che vanno dai 10 ai 30 nanometri di diametro. Okay. Quindi qualcosa che neanche col microscopio elettronico forse si vede, o sì? No, sì, lo vediamo col microscopio elettronico, ma stiamo veramente al limite. Ecco, appunto. Va bene, allora, grazie Marco Natali, 28 anni, giusto? Sì, giusto. Avanti così.